26. Sul sito della radio si possono trovare anche le varie modalità di adesione in attesa dell'inizio del radioabbonamento che forse avverrà ad aprile. E allora cominciamo con i rapidi saluti di Prammatica quando iniziano gli spazi del sottoscritto. Salutiamo Maya, chi ci sta ascoltando in Umbria. Un saluto a Mariano Nitterri qui a Roma. Hans Bakovic dal Piemonte del progetto Crur, che presto ci ascolteremo proprio qui a Disorder. Un saluto a Bruno Pallotto di Birudrum, progetto elettronico che ci siamo gustati nelle scorse settimane. Un saluto alla Furna, la Furnasetta. Simone Scalise di Audio Chaos. Tiziano Zeno Farinacci. Angie Sellarione Angela qui a Roma. Anna qui a Roma. Naturalmente vado a salutare anche il fedelissimo Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo invasa da problemi in questo periodo. Un saluto a Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Ovviamente segnalate qualsivoglia malfunzionamento, giacché siamo ancora in una fase, non dico sperimentale, ma stiamo valutando delle cose, e quindi valutate e diteci se si sentono bene le voci, le parole e soprattutto la musica. Allora, questa sera ci ascoltiamo altri due tracce riguardanti il Canto di Vesta, un progetto neofolk qui di Roma che abbiamo visto in versione live lo scorso sabato in un club proprio qui a Roma. Si chiama La fine del giorno, questo quattro tracce, e noi ci andremo ad ascoltare appunto il brano omonimo e Il parto delle illusioni. Si perdono nel cerchio, le luci ne son l'accompagno, memoria è un fratello distratto, non curante dell'io iracondo, mi bussa nell'ora del canto, trascina la boria ed il vanto, si posa sul mesto giaciglio, muta ma va sussurrando. Apri i gradini del fato di slacco, addentro al mistero, la fine del giorno. Oltre il piano, l'ego ha distinto la solitudine, un bacio di posto. Per il respiro son asma, promesse alla mente son gogna, abbracci su mani di paglia, riflessi in una croce corrotta, stanze di mute pareti, paesaggi astratti nei quadri, libri in vetrina custodi, scrittori silenti imbrattati. Oltre i gradini del fato bislacco, attento al mistero, la fine del giorno. Un oltre il piano, l'ego ha distinto la solitudine, un bacio qui imposto. Ma intense le note e le tracce di La fine del giorno del canto di Vesta di Chris Florido, che vado a salutare. C'è il sito Bandcamp che vi invito ovviamente ad andarvi a sentire tutte le opere che lui ha composto in questi anni, compreso appunto La fine del giorno. Cammini, mi disegna memorie, concordano promesse ormai all'imbrunire. Gli astri divengono sorelle del divenire, han sciolto le maglie, mi disonfili tra loro. Tornando indietro nel tempo e andiamo un po' a vedere un progetto proveniente dalla Campania, uno degli artefici e delle icone proprio del neofolk più, diciamo, di stampo mediterraneo, e sto parlando delle Corde Oblique. Verso i quali abbiamo un occhio, diciamo, di sempre di osservazione sulle gesta artistiche che loro fanno e attuano. E adesso siamo tornati indietro di un qualche annetto per andarci ad ascoltare due tracce da Ale o Bitter Almonds, album realizzato 6 anni fa, nell'aprile del 2020, e ci ascoltiamo il brano che dà il titolo appunto al disco, e Ale o Bitter Almonds, e poi Pestum. Quotidiano. E nel frattempo si sono aggiunti altri ascoltatori. Un saluto lo tributiamo subito a Davide Albireon Borghi, di appunto di Albireon. Albireon che abbiamo visto appunto sabato scorso insieme al Canto di Vesta qui a Roma in un bellissimo live. Intimo e tenue, come l'ho definito, una bella serata. Emozionante, devo dire, grandi di questi due progetti, anche loro acustici di area più o meno neofolk, al pari appunto sia di queste corde oblique, appunto il Canto di Vesta che abbiamo mandato in inizio trasmissione. Enello, Bitter Almonds, un album del 2020, una formazione decisamente allargata perché oltre al nucleo principale di Riccardo Principe, Alfredo Natolo Alberti, Alessio Sica, Umberto Lepore, ci sono una serie di voci femminili, 4 o 5 addirittura. C'è anche ovviamente Luigi Rubino al pianoforte e Sergio anche Panarella, entrambi erano anche negli Ashram, non credo più esistenti. Enello, Bitter Almonds e Pestum, le due tracce che ho scelto per questa sera. È un altro passaggio, ce lo faremo la prossima settimana. Buonasera anche a Flavio Dirbecante in Noise Cluster, a Jean-Claude Berthaud. È una madre che non c'è, è una madre che non c'è. E lasciamo queste note così acustiche e mediterranee. Ci trasferiamo invece, anzi torniamo qui a Roma e lo facciamo con Scratches. L'EP di ultimissima uscita per riguardanti Dear Company, Elisa Panbianchi e Martino Cappelli. E qui ci inoltriamo in un territorio più affine al trip hop. C'è molto di Bristol in quello che andremo ad ascoltarci. Ci ricordano anche i già goduti Pindar in passato. Un domani che è fatto di un sogno, la città mia che è cattiva. E questa sera è il turno di Wonderboy e Elevazione. Si chiama Scratches, dunque questo esordio per quanto riguarda i Dear Company. E ci siamo ascoltati un paio di pezzi, Wonder Boy, la strumentale Elevazione. Bella questa commistione tra post rock, trip hop, naturalmente con tonalità oscure. Elisa Pambianchi e Martino Cappelli a gestire questo progetto che speriamo ci dia anche un album ancora più lungo. E saluto anche il medico della peste. E andiamo a sentirci qualcosa di più cupo e introspettivo, e trattasi della Furnasetta, un ultimo passaggio per questa sua ultima opera. Si chiama Something Wicked This Way Comes ed esce attraverso la Masked Dead Records, coraggiosa e recente etichetta. Questa sera ci ascoltiamo From Hand to Mouth, I Was Born to in West Texas.